No, aspetta. Penso ASA, 1000 ASA, è la pellicola che praticamente la sensibilità della pellicola a colori, bianco e nero, eccetera, eccetera. Della pellicola, adesso però sono ISO. Ma vabbè, io sono io sono macchina antica. Brava. No, questa qua è concettualmente una macchina antica, nel senso che comunque la reflex utilizza sempre, sai perché si chiama reflex? Perché riflette l'immagine. Bellissimo, perché utilizza sempre lo specchietto che a 90 gradi riflette l'immagine, infatti è quel classico rumore che si sente di clac clac, che è il rumore dello scatto, che è lo specchietto che si alza e si abbassa, capito? Che non serve a niente, serve solamente a ricordare quello, perché poi prima si alzava perché dietro c'era la pellicola, adesso ci sono i sensori e basta. E lo specchietto serve esclusivamente per farti vedere nel mirino in diretta quello che stai riprendendo. Sì, ma c'è la tendina. Ma di Roger. Ma io c'ho sempre una mamma ferma, che mi pare che la rimette in moto, mi piace dopo quella macchina. Ho fatto certe foto con un 70-210 a Usilo. Mi sono messo nella chiesetta che c'è, nella prima chiesetta che si trova prima di salire su al rifugio dell'acqua. Quella chiesetta che c'è lì, mia moglie si è messa giù, io dalla chiesa con la neve, gli ho fatto la fotografia, ho preso in primo piano il suo viso, col paesaggio un po' sfocato, non tantissimo, un po' appena sfocato con la neve, ma dov'è che belle foto? Ma cavalletto a manetta, perché sennò fotografi di tutto tranne che quello che devi fotografare. 70-210 adesso. Ma non è cavalletto, ma non ferma, Il cavalletto lo usavo solo in posa. In posa B lo usavo, sennò non hai mai fatto fotografia in posa B. B nel senso con apertura del diaframma e bassi ASA, come stai dicendo tu? Praticamente il diaframma rimane allargato e ti riprende quelle fotografie lì, le ho fatte da Fertiglia verso Alghero. Ho messo il cavalletto di notte e ho ripreso tutto il paesaggio di Alghero illuminato. Tu devi vedere gli effetti che fa, la luce che cammina con le strisciate, è troppo bello. È una foto classica che si fa con quella tipologia di settaggi, diciamo. No, molto interessante. Ne ho fatto una ieri notte. Tra l'altro acquisisce anche dei colori, le immagini acquisiscono dei colori particolari, capito? Molto bello. Addirittura ieri come tempo avevo un 30 secondi rimasta aperta. Ma bella la vera, era quasi completamente buio. Sì, no. Io guarda, prima c'avevo una passione, vedevo un insetto, facevo la macrofotografia, un fiore piccolo e ingrandivo, facevo foto su tutto, sui bambini, due cani che si seguivano da casa con la neve, cavolo, un anno mi ricordo, due pastori tedeschi che si seguivano, oggi ho strato con gli ASA e ho fatto sì che la pellicola a colori diventasse bianco e nero, l'ho invecchiata e fatto la fotografia al volo, due cani che si rincorrevano, due pastori tedeschi in mezzo alla neve, tu sai che bello. Parolte. Ma ti ripeto, ma sai, adesso è una passione anche che si può coltivare, cosa che prima costava molto di più, Adesso puoi fare 400-500 scatti e non, alla fine svilupparne o comunque mandarne in stampa 10-20. Prima le scattavi, te le dovevi vedere con l'oculare perché per evitare di cose, comunque c'era sempre uno sviluppo e quando scattavi 400 foto erano sempre almeno 10 rullini, se non anche di più, se non 20 che dovevi fare sviluppare, costavano 6.000 lire e iniziavano a essere importanti le spese, capito? Lo so quante sono le spese. Io allora, se tu hai presente quelle scatole che si usano per conservare la biancheria, quelle coi bottoni, ce le presenti? Ma ce le avrei piene di foto. In più c'ho anche, io facevo anche diapositive, c'ho diappositore con le diapositive e via dicendo. le diapositive erano bellissime, rendevano un bel... Il granditore invece per sviluppare in bianco e nero, il lupetto della Kodak. Quello ce l'aveva Leandro, un amico mio, sviluppava sia a colori che in bianco e nero, a colori un po' di meno, ma in bianco e nero un bel... Credo, perché a colori te ne esce la canna e hai sempre risultati un po' così. In bianco e nero è facile nel senso fare le cose basilari, però è emozionante anche quando tu prendi proprio questo pezzo di carta bianca, lo metti prima nell'acido e poi lo devi mettere in due acidi, no? Il primo che rileva e il secondo che blocca, e dopodiché di nuovo sciacquare nell'acqua. Pagato. E poi spegnere con la molletta. Perché sono dei fogli veri e propri, quindi se risultano essere bagnati, allora li devi stendere con la molletta nel filo. E io mi ricordo, il problema era fare la camera oscura per cercare di non doveva filtrare niente, sennò ti uscivano opacizzate, opache le stampe, no? Andrò, questo amico mio ha tre passioni. Una è quella di costruire aerei e elicotteri, ma li costruisce proprio lui, li mette il motore, tutto qua. Due, la fotografia, e tre, sono gli stereo antichi, ma quelli che valgono, quelli che costano degli soldi. E tutte e tre le passioni le fa in una maniera che è assurda. Se tu vai, c'è la camera oscura, si è fatto tutto quanto, ha diviso la camera, una cameretta che allora si era divisa, lui si è fatto la parte dove costruisce i cotterei, c'ha motori, telecomandi, di tutto, e vernici, ripittura, rifarlo, e tu devi vedere che roba che riesce. Ha detto che una volta sono andato a portare dei mobili, questo qui ha visto un aereo che aveva un'apertura all'aria di 2 metri, e gli ha detto se glielo davo, ha detto no, non lo do, questo qua non lo do. Anche se era molto ingombrata a tenere in casa tutto quanto, poi era bellissimo. Poi alla fine ce l'ha fatta, gli ha offerto una cifra esorbitante e gliel'ha data. Gliel'ha data e dice, però mi sono un po' pentito, già ti dico la verità, perché io non l'avevo mai fatto volare quell'aereo e dovevo collaudarlo ancora. Comunque sicuramente va bene, perché era costruito in una maniera regolata. Gli elicotteri, tutto fa, cavolo, è bravissimo. Caffa, io lo so, qualche volta mi sono cimentato a fare qualche aereo e alla fine un figlio, è strano che l'abbia venduto, evidentemente l'ha pagato bene. Oh Fabri, e beh, non le avete fatte volare? Sì, una l'ha fatta volare, bellissima, ecco, non pensavo. Da quella bianca o quella azzurra? Quella bianca, cacchio, ma bellissima, perché l'ho fatto volare con i bambini, siamo andati sul terrazzo e c'è su uno, e ha iniziato a volare, io pensavo che prima è caduto dentro la parete giù per il buco, ho fatto fianco, poi lui l'ha acceso, ho detto ma ha iniziato a volare, ha preso 3-4 metri, è andato verso il palazzo di fronte, io pensavo che volava 10 metri e gli cadeva lì sopra, cacchio, ha iniziato a volare, ma cazzo, cioè alla fine sembrava una stella, è andato verso Piazza d'Italia, è arrivato. Capo, vogliono fare il giorno di Capodanno, vogliono fare questa specie di mega raduno e lanciarne non so quante, cazzo, a Giomai danno fuoco a Sassari se ti fidi, se non stanno attenti. Fatto sta che gli devi prendere, far prima prendere portanza, cioè dentro deve scaldare bene, una volta che la mongolfiera scalda bene allora ti tira le mani anche, cioè lo senti che prende portanza e inizia a salire. Sì, l'ho visto, ma in alto, ma non so cosa vuol dire in alto, non la vedi più, è sempre accesa. Ma infatti arriva a circa 200-300 metri. Il problema è se scende prima che si... perché una volta che arriva a 200 metri, quando poi si spegne, arriva giù e lo stoppone è già bruciato. Se invece, cazzo, c'è vento e la fiamma riesce a prendere le pareti, si accende e scende, perché una volta che si accende non ha più portanza e scende di brutto, quello stoppone mette fuoco da qualche parte. Lo so. Vabbè, se domani sentite qualcosa sul giornale io non ho detto niente. Spiegatemi cosa è. Le lanterne tibetane, queste specie di lanterne, cioè di piccole mongolfiere di carta, che hanno una specie di stoppone fatto di tessuto e cera, si accende, le stanno vendendo tuttora da molti cinesi, molti negozi di feste, di cose del genere, le stavano vendendo anche da Cifada un periodo. costano una miseria, in breve sono delle mini mongolfiere di carta, tipo carta velina, e poi al centro c'hanno questa stoppone che è proprio come una mongolfiera, gli fa entrare, gli fa aria calda, e quindi per una differenza di temperatura tendono a salire in aria. Colorate, sono colorate, sono bianche, ci sono colorate, ci sono bianche, io ce l'avevo perché me le ha chieste per l'organizzazione di un matrimonio una ragazza, poi alla fine del giorno non si sono potute lanciare perché c'era parecchio vento lì a Castelsardo, allora me ne ritrovo in carico una trentina, capito? Ah, cacca. Bello quello che ha fatto mia nipote, il matrimonio da poco. Io alla scuola di Mediterraneo, ha un matrimonio favoloso. Cosa ha fatto? Ma si è sposata e ha fatto il matrimonio lì alla scuola di Mediterraneo. C'erano anche fuochi d'artificio, e quanto ne vuoi? Purtroppo questa persona che me li ha ordinati mi ha fatto fare anche una figura di merda, perché si pensa che i fuochi d'artificio costino poco, mentre invece per due minuti di spettacolo ti costano intorno ai 150 euro, quindi questa qua mi ha detto il minutaggio, non mi ha detto realmente quanto voleva spendere, e gli ho ordinati i fuochi e poi alla fine si è tirata indietro, soltanto che questo tipo che me li fornisce li aveva già impacchettati, li aveva già preparati e niente, glielo ho dovuti dire, se ti fidi ho perso il contatto. Negativo, non se ne possono spedire fuochi d'artificio, tutto il materiale esplodente innanzitutto prevede che tu abbia un porto d'armi o il patentino da fuochino, e allo stesso tempo non può essere minimamente spedito fra privati, ci vuole un permesso prefettizio, una cosa burocratica un bel lunga. Quindi tu li hai acquistati qua? Dovevo acquistare un contatto che ho a Cagliari, ma basta che guardi un attimino su internet, cioè non è una cosa illegale se tu vai a prenderli, capito? Se vai a prenderli non c'è problema, sempre che tu abbia il porto d'armi. Io non ne ho le armi, ma il porto d'armi no. Quell'amico che abbiamo in comune su Facebook sta aprendo un tirassegno a proposito di armi, quello è in gamma come persona. Grazie. Ma io. E anche guardia Zufila da lui. Non lo sapevo, lui masticava nel nostro comando della polizia con Zufila, però poi non l'ho più visto. Lui sai per cosa lavora, no? Anche lui sa bene. Lui è in gestione, in breve tutta gli arrivi. Diciamo che fa la manutenzione degli arrivi del Banco di Sardegna. Lo so. Fa un fracasso di chilometri, però ben stipendiato, ripeto, c'è quasi un ruolo da dirigente dal punto di vista della gestione di questa cosa qua. Sì, lo so, me l'ha detto. Infatti quello che tu gli buttano il regalo, gli danno in donazione, eccetera, eccetera. Sì, lo so, attacca panni, sedie, tavoli, di tutto. Lo so, molto spesso portava anche cosa nuova, perché nuova nel senso che non era rovinata, perché magari le mettevano in qualche stanza dove non entrava nessuno e quindi di conseguenza poi alla fine la roba risultava essere nuova. Lui è una persona in gamba, tra l'altro ha un ruolo dirigenziale strano perché pur non avendo titoli di studio è riuscito proprio facendosi il mazzo ad arrivare in alto. Conosco lui, conosco i fratelli, Marcello, eccetera, eccetera. Conosco tutti molto bene, Lello. E tu sai come si chiama lui di cognome, e non è il caso adesso di dirlo. A fianco a te abita il cugino, che era dei Vigili del Fuoco. Non lo so. Sì, conosco il cognome. Ma c'è anche un elicotterista che ha quel cognome. Non so dove abita questo elicotterista, ma lì lo conosco bene. Se tu mi dici dove abitava, ti posso dire anche quando era ragazzo dove abitava. In via Veronese. Pacca. Sì, no, il cugino abita vicino a te e sicuramente lo conosci, poi un giorno ne parleremo, eh. Fabrizio. Via. Un piccolo artigiano degli anni 30, di la verità. E sono vecchietto ormai. Gli ho fatto delle foto stamattina mentre stava facendo questa spinetta, e la premio Nobel, che non c'entra niente, era limitata a Oscar. È bella moto, Fabri, non la facciamo girare. Ecco, mi chiama vergogna, faranno ferma la... Faranno ferma, tanto saranno ferma, aspetta, ma... Sono ferme 4 mesi che non le metto in moto, 4-5 mesi. Ma io la mia la sto sempre mettendo in moto, anche se è ferma, l'altro giorno l'ho fatta anche girare un pochettino all'interno del cortile, perché anche i dischi che si arrugginiscono, se non si rovina. Sì, lo so, ma io bisogna che la metti in moto in questi giorni, mi sono ferme da parecchio ormai, ce ne sono alcune che sono ferme anche molto più, tipo anche di 6 mesi qualcuna. Cosa le deve fare adesso? Le deve sciogliere per fare pali per tirare ancora di più in su l'antenna, capito? Ecco sì. Ah, adesso gli sta venendo questa cosa di arrivare sempre più in alto, capito? Giusto, uno bello che fa un'antenna in acciaio, credo si faccia domani, non c'è un tirante, c'è solo il palo che sarà un 12 metri più l'antenna. Che pali ha messo lui, i tiranti non servono a niente, anche perché se si spezza, se c'è un vento che spezza quel palo, ai tiranti si rimagna. Se adesso a me i tiranti la maglia rotta, sino adesso. Un vento a 120 c'è stato, e dovete chilometrare dentro la televisione. Pali ha messo lui, ti ripeto, se c'è un vento che spezza quel palo, il tirante è inutile che ci sia, è sottodimensionato quel tirante. Ma i miei pali sono ricattati, perché sono di quelli, come si dice, allungabili, però all'interno io ho messo un'anima in ferro, e in più ci ho messo 9 tiranti, quindi immaginati. Ho comprato quelli di Palato, capito? Quelli che vende Fusale, cosa? 50 euro di tubo, poi l'ho messo dentro un pezzo. In più l'ultimo pezzo l'ho fatto proprio di tubo là. La cosa migliore è comprarli da Marcello, li paghi di meno, sono pali veri, perché quelli là, stai dicendo tu, sono proprio pali da parabola o è l'antenna di televisione che non pesa niente o soprattutto che non ha portanza sul vento. Quando metti un'antenna come quella della 27 che ha una 5 ottavi, che ha una certa lunghezza, un certo peso, per una questione di leva e di fulcro, quando tu lo metti a una certa altezza, 2 kg o 3 kg, alla fine sul piede arrivano 50-60 kg. E se c'è il vento a raffica è tipo martello battente, te ne traccia tutto. Poi lo spessore di quei pali sembra carta stagnola proprio. Ma quando tu li metti il rinforzo interno, non è più lo spessore del palo, ma c'è lo spessore anche del rinforzo. Ma ti hai fatto bene, assolutamente, una volta che l'hai rinforzato il pale di avere un palo grosso. Però guarda, i pali migliori sono quelli da segnaletica stradale, che hanno quella specie di U interna ripiegata. Quelli là proprio non li muovi neanche se il vento è a 200 km orari. Grosso, poi non si arrugginiscono, anni ci stanno le segnaletiche nel senso opposto. Infatti, sono dedicati perfettamente. Ma ti ripeto, Marcedu, io l'ho preso da Marcedu, ne ho preso 6 metri e dovrebbe andare bene, dovrei riuscire a superare il tornino dell'ascensore perché è un po' sacrificata, non so se l'hai vista dove la mia. Dimmi loro. Fabrice. Dimmi. Che ti stai guardando? Devo avere 3 teste, sto seguendo a voi, sto qui andando roba al computer guardando un film. Dirogero, aspetta me lo porto anche io il computer, dai. E che cosa te ne fai tu? Capito, ma solo tu ce lo puoi avere, ma poi perché stai frugando fra le mie cose di Facebook? Non sto frugando tra le tue cose. Lo so che con il computer già ci gioco a volte, solo che su Facebook è una cosa che ho fatto solamente per cercare di mettermi in contatto con i miei pochi parenti che ho come collegamenti, quindi solo per quello. E infatti non so nemmeno, molto che faccio anche pagina, infatti sono arrivato a vedere quella che ti ho detto poco fa perché guardando le foto che mi hai messo, ho cliccato da qualche parte, sono andato a finire, dove ho visto delle foto tue, dove nei like che scrivi, non ho capito bene. Ciao. Oui, oui, oui. Bah. Tutti morti? Io sono vivo ancora, ma mia moglie mi stava dicendo una cosa e l'ho dovuto rispondere, quindi sono fermato un attimino a non parlare. Io capito, io sono un po' qua, un po' computer, un po' guardando la televisione, un po' tutto, stavo così guardando, non so se i febbrotteri, i fratelli, che era molto bello, un film impressionante, che ho visto un po' di tempo fa, lo stanno dando su Rai Movie. No, non l'ho mai visto. Sai che cosa mi è capitato, Fabio, l'ultima cavolata? Dimmi. Ho ordinato su cosa, su Tecnocomunicazioni, ho visto l'HP1000, Rosmetrovato, metrocorvatore con luce e tutto quanto. E l'ho ordinato perché mi piaceva. E oggi mi è arrivata, apro il pacco, ho fatto l'HP500, me l'hanno fatto pagare col prezzo del 1500, costa 36 euro. Il 1000 costa 95 euro, c'è la differenza. Uno c'è l'accordatore, l'altro no. Uno è luminoso, l'altro no. E, insomma, gli ho telefonato, incazzato, mi ha detto, scusi, signor Remo, questo mi sono sbagliato. Ho preso sicuramente dallo scaffale perché era la scatola uguale e ho sbagliato prendendolo. E ho detto sì, ma questo qui io non lo voglio perché io ho ordinato per avere l'accordatore, questo è l'accordatore. No, no, me lo spedisca subito che li mando indietro l'altro e pago anche le spese di spedizione. Sì, va bene, può capitare, è un errore quello. Ma era sfiga mia, che a me cazzo. Sì, tu sei spiegato, però comunque gli accatti può capitare, è un errore, si ti stai riparando anche spese di spedizione e tutto. Sì, vabbè, ma mi ha dato crepo, quando l'ho aperto ero tutto entusiasta di piazzarlo, a vedere, no, non è possibile, tutta tassa, portati non ne ha la capita, le guardo, c'è scritto la capi 500, io grido che non è tutto. Vabbè dai, e quindi gliel'hai già rispedito? No, perché mia moglie non ce l'ha fatta, l'ho impacchettato nella stessa custodia che me l'hanno messo loro, nel stesso involucro che me l'hanno messo loro, l'ho messo, gli ho ripassato tutto il nastro, ho messo l'indirizzo, adesso mia moglie domani quello sparisce. Domani venerdì, quindi la prossima settimana dopo le feste, vai. Vabbè, se la biglietto ci abbiamo un altro di Rosa, insomma, non è quello il problema è che la delusione. Lo so. Vabbè, fuga, sono mezzo stordito, c'è il Grobe, non rientra. Ah boh, Grobe, Dio, che ogni tanto sparisce, è un fantasma. Vado a prendere un computer, guarda, fai, c'è anche solo il computer lì, va, cioè, tanto non si distrae poco, grande. Sono tutte balle, magari stanno facendo le moine, lui si sta lasciando andare. Lui deve le moine, lui che io non te lo volevo dire, ma è un po' gaming. Lui ogni volta che viene con me prova a toccarmi le cosce, cioè adesso, vabbè, tanto non sta ascoltando. Rifà. E tu cosa li fa? La mano le cose? Io le dico fini in nera. E per quello che ci ha parlato di questo suo collega universitario. Quello rimbiazzi. Oddio. Che cazzo sarà convenente? Che è successo? Questo grondino. E tu Fabio, finisci? No, io sto lavorando, ho lavorato a Natale, Santo Stefano, la notte di Capodanno sono giù al lavoro. E io sto lavorando, adesso sto riposando perché da venerdì inizio alle 3 notti, quindi al centro c'è quella di Capodanno. Cazzo, allora, almeno a Capodanno te la potevi prendere. Io me l'avrei anche preso, ma il posto mio che ci va? Vabbè, non c'è nessuno, non c'è nessuno che abbia un tuo incarico. Sì, perché il nostro è ciclico, quindi dal più basso al più alto c'è sempre, ci sono le figure che devono essere 24 ore su 24, ma ho protesto proprio così, è al posto mio chi ci va. Su quello alto così. No, sono quello alto, solo che devi trovare il collega che è alla tua posizione, che a Capodanno, che ce l'ha libero, viene al posto tuo. Qualche mal capitato, qualche non sa cosa fare. È brutto però, allontanare dalla famiglia a Capodanno è brutto. E vabbè, cosa aveva? No, io mi sono preso... sono preso il 31 di fede, anzi, veramente me l'hanno dato, io non gli ho chiesto nulla. Probabilmente ha visto l'amore di lavoro che ho svolto da solo nel periodo di Natale, mi ha voluto dare un giorno premio per posare e mi ha dato il 31 e quindi me l'ha sabato una cifrata a lavorare. Ehi, già va bene, così già va bene. Loro ci tocca andare, i turni sono quelli, quando ti capita te li fai, non è che puoi pretendere, che c'è certo il canto che ti trovi il mal capitato, che tu, ma dove lo trovi. Diciamo che io stavo organizzando, perché poi facciamo un giretto, se tutto a posto con la notte poi ci facciamo un bel cenone, io oggi ho comprato i gamberoni, un po' di, adesso devo fare il polpo, come insalata, un po' di altri parti, un po' di cose, e ce lo facciamo giù il cenone. Il problema è che in questi giorni abbiamo avuto un disservizio e quindi proprio la notte e la sera dovrebbe rientrare in parallelo l'impianto, e quindi siamo a rischio di mangiare, di passare, dare un morso a un gamberone e andare, tornare, un altro morso, siamo a rischio che non riusciamo a sedere, rimanere seduti qualche ora, dai. Normalmente nessuno in quanti lo fa? Dipende dal tipo di impianto, noi siamo, diciamo che il turno ci siamo noi, l'isola produttiva, l'esterno, gruppo nel 2 e il parco, cioè, c'è gente la notte, però poi non ci vediamo, ognuno c'è la sua competenza, ognuno c'è il suo impianto dove rimanere, poi alla fine ci troviamo, diciamo che il nostro turno siamo, ci troviamo su, siamo 12. Io l'altro giorno quando sono venuto a portare quella merce per Natale, erano tutti a mangiare, cavolo, non mi volevano scaricare. E allora gli ho detto, guardi, se c'è Massimo lo chiami e glielo dica che sono io, gli vedrà che mi ha convenuto. No, mi hanno detto che è in ferie. Ma vabbè, comunque chiamo la signora, ha chiamato questa signora, stavamo andando a mangiare, ha detto sì, vabbè, se fa in fretta. Erano pochi pacchi, sono portati in fretta e sono andato. Perché il discorso è quello che lì, per i colleghi di edilizia che lo vanno a mangiare, magari ieri, all'una o un quarto vanno. E infatti sono arrivata a quell'ora lì, e stavano uscendo per andare alla messa, e niente, meno male che mi hanno fatto scaricare, perché avevo un medico in segno per il periodo, era un casino, mi sono fatto quella lì per l'ultima. Pensando di trovare sempre gente, invece sono capitato un orario un po' strano. Per allora che quindi uno non ci va alla fine, capito? Cioè, ti hanno voluto bene, ti hanno trattato bene, in genere dicono aspetti a più tardi. No, quella signora, quella ragazza mi aveva già detto un no secolo, dicendomi che non poteva, che erano tutti praticamente alla messa, che non c'era nessuno per scaricare, i magazzini non c'erano, e ho detto guarda che io li scarico sempre in ufficio, non in magazzino. Diceva proviamo a chiamare la signora, non so cosa, ha chiamato e c'era, meno male si stava preparando per andare a mangiare. Bisogna vedere chi, perché loro magari vanno ancora più tardi. Erano due donne e me l'hanno fatta mettere lì. E poi c'era una stanza che si spostava come quel boss. Ho detto, mi sembra la stanza di quel boss che hanno beccato, che si spostava e siamo giù. E dove? Non negli uffici. Ma il piano di giù o il piano di su? Primo piano. Primo piano c'è la direzione. E lì, ma in fondo c'è un... c'è una specie di stanzino. Si è spostato questo blocco, che si spostava la stanza, tutto si spostava, era una cosa allucinante. Ma lo diceva sala riunioni? Mi ha fatto entrare dentro, non lo so se era una sala riunioni, ma non penso, e non era enorme. Era una stanzina, metto, se mi può mettere qua dentro, che ha spostato questo affare, cavolo, mi sembra la stanza di quel bosco. No, quindi diciamo primo piano, non su, è l'archivio c'è lì, in archivio. Esatto. È l'archivio, quindi è il piano sotto la direzione, in archivio. Sì, è l'archivio, esatto. Però era strano, si spostava, una cosa allucinante. E ha fatto lo spazio per metterci questa roba, capito? Perfetto, capito, quindi ha spostato lì, tipo una manovella. Infatti mi sembrava la cassaforte lì. E lì oppure proprio su dove c'è l'archivio dei codici, la sicurezza, forse lo sai. Sicuramente, mi sembrava la cassaforte lì. E vabbè, comunque, meno male che mi hanno servito tranquillo. Ho capito, su dove c'è l'ufficio del personale. E c'è il primo piano, praticamente fa le scalinate, c'è l'ascensore, quindi l'ascensore sarà il primo piano. Vedi, ho capito. Esatto. C'è la macchinetta del caffè. Sì, la macchinetta del caffè su al primo piano. Esatto. Io sono molto... sono così, però osservo molto. E fai bene osservare, chiacchio. Io attivo, brode. Sente. Ma cavolo, sei finito. Ero che mi stavo ascoltando. Ma non dire che sì, ti abbiamo chiamato sul volto. Oh, io. Chiedi con quel tuo collega. No, capito. Sento, chiedi con quel tuo collega. Capito, cosa hai detto con tuo collega? Cosa? Con chi? Con tuo collega dell'università? Già. Yeah. Per carità. Tra l'altro mi hanno detto anche cose non molto carine. Che hanno una vita strana questa gente qua, per carità. Hanno una vita molto strana. È tipo quella tipa di coso. Che hanno ammazzato Alghero. Ah, ragazza, non mi sa niente che l'hanno ammazzato Alghero. Sembra vedere il sito su Facebook. Ci sono tutte fotografie un po' strane. Roba di satanismo, queste porcherie qua. Sì, praticamente che si punta il coltello nella gola, un taglio finto col sangue che riesce, tutte queste cose. Cosa hai visto? Un po' strane. Lo sai che è stata la professoressa anche di mia figlia? C'è mia? Era giovane, nemmeno 40 mi fa, 39, una cosa del genere. E... sembrava tranquilla, però secondo me aveva una vita strana, aveva delle fotografie troppo strane su Facebook. Si tratta. Ma tipo un ragazzo che hanno beccato il ragazzo tipo con cui stava insieme. Lo geloso. No. Secondo me facevano dei giochetti strani e magari qualche giochetto è andato male. Molto male. Giochetti proprio, La serie? Ti devo dire la serie. So, è proprio, ma è una mia idea, non lo so, facendo l'amore magari giochetti strani, far finta di essere, di strangolarsi, di fare, cose così. Una cosa del genere è successo con l'ingegnere quando era un paio di mesi fa, che c'erano con le due ragazze da legate, una è morta sopra un sacco. Lo vedo come un attimo, poi può darsi che mi sbaglia, però la vedo come un attimo così. Una che si fa fotografie e che scrive cose un bel boccaccione sotto. Va. Una boccaccione, va. Sì, nella vita bisogna godere, e io sono una di quelle che vuole godere al massimo, una cosa così ce l'ha scritto. Tutto poco, quanti anni aveva? Ah, no, vabbè. Sì, ma a livello di sesso sempre scriveva, non a livello di godersi la vita, ma sta poco di diverse maniere. E parlava sempre di sesso. Una bucaccione. Non aspettavo di giudicarla, così. Le donne così. Vabbè. Pensavo che tu magari le vedi normalmente, sono persone tranquille. Poi fanno cose, anche satanismi, roba del genere. Faccio per dire che uno che così ci prende a fotografarsi con un coltello di cucina messo nella gola, con un taglio finto col sangue che gli esce. Capa. Aspetta, mi prendo una birretta, Mamma mia, questa è gottura. Aspetta, mi prendo giù un buon pollo. Come è piaciuto di vita. E io già sono qua, io vi sto ascoltando, capito? Io vi sto ascoltando. Con un po' guardando, facendo, sto guardando questa tipo di Ben Grode, capito? Quegli amici che c'ha. A parte che quelli sono conoscenti, non sono amici. Guardati i miei video, c'è quello, un video che si intitola Quando mi annoio. È adattata questa norma, eccetera, eccetera. Ma ti piace allora? Tu mi stai innamorando, cacchio. Sui video. Metti, ce n'è uno che si chiama Quando mi annoio, guardalo. Cioè, provo a cercare. Perché non penso la vergogna a prendere l'amicizia di certa gente. Ho preso la tua, scusa. A me io non sono pederasta. Fammi cercare, qui c'è solo foto. Ma a destra c'è scritto video, foto e video. Vai su video, schiaccia video. In basso a destra. C'è scritto foto e video di Antonio il Grode. Se tu clicchi su video ti fa vedere solo il video. E che cosa devo guardare? Tra quel video che si chiama Quando mi annoio. Bello, se non lo puoi vedere. Io non capisco niente. Bravo. No, usa la webcam, carica foto e video. Tu vai sulle foto. Vai sulle mie foto. Dopodiché una volta che ti apre la schermata delle foto c'è scritto foto e video. Vai su video. Parlo. E beh? Cerca questo video, si chiama Quando mi annoio. Guarda. E chi è? Ciao Vito. Ciao, buonasera. Buonasera, anche a te, sei in compagnia del Grode qui presente, del Gianni Double Room e del Fabrizio Ace of Cat. Scappa, non chiedo dove sono in questo momento. Saluto nel tutto il generale, vai. Sì, saluti, ciao Vittorio, lo sto guardando, Pier, perché è giusto. Guarda un pochettino, guardatelo tutto. Le cagate che ho fatto. E oggi c'era sulla TV, non so bene, c'era gli aerei, però quelli a reazione, micidiali. Però sono quelli che hanno la turbina, i Gianni già li conosce. Quelli sono belli, vedi? Io l'ho visto l'Antonio, quello lì faceva volare i pantaloni, la turbina, di quello che c'era dietro, lo stava mostrando. Si vola con i pantaloni. Alla portetta dice che non si può. Non si poteva far volare gli attori perché ha bisogno di una pista vera per volare, perché ha bisogno di ombre di. Come si chiama? Di accelerazione, di spasta. E guardando, io questo Facebook non è che mi piace assai, sarà. Tu che sei entrato nel mio, cosa ti riesci a vedere nel mio profilo? Grode. Sono andato a prendere una birra, che mi avete cercato? Dimmi. Ti stavo dicendo, ma nel mio profilo cosa si riesce a vedere? Quello che... cosa si riesce a vedere in che senso? Ho detto la tua amicizia. Ho anche il numero di mutande. Ma raga, le foto le vedi quelle che ho messo? Negativo. Quali foto? Ci sono quella con i bambini? E poi... ah, quella delle vespe, sì, certo che le vespe. E quelle dei viaggi che ho fatto? Negativo, adesso non so a cosa ti riferisci, però forse no. Forse non sono più visibile, poi vedo un casino, vabbè, faccio bene, è un casino questo Facebook. Vittorio. Sono qui, Nessun. Scusami, non ti volevo disturbare, ti volevo chiedere solamente se avevi un profilo Facebook. Sì, che ce l'ho. Allora ti cercherò, Ti cercherò, ma se non sei nominativo come fai? Tu il tuo nominativo? Non mi troverai mai. Ah, se sei sotto falso nome no, però se sei col tuo nome e cognome sì. Che ha fatto? Tuo nome e cognome no. Negativo. Allora non lo so. Cercami, mi chiamo Victor Brian. Victor? Brian? Chi è? Sono io. Ho capito che sei tu, ma come mai questo nome? Un nome d'arte. Ma sei registrato così? Roger. E anche al coso, come si chiama? All'Inps dei cantanti. Roger. Si chiama, ricordami, qual era il nostro Inps? Ma tu, ma sei tremendo. Ricordo come si chiama la... come si chiama? Si chiamava... ricordo. Ma pare della band. Oh. Hai presente quello che paghiamo noi, che versiamo come tasse? Non lo versiamo all'Inps, almeno come artisti. Lo versiamo al... alla SIAE. Oh, non è la SIAE, è al pari dell'Inps, cioè della cosa di previdenza sociale, capito? Ma che sto sapendo, scusa? Tu ti devi esibire in pubblica, per forza ti devi iscrivere alla... non è l'Inps, ma... che non è neanche la SIAE, c'è un nome particolare, ed è la cassa a cui tu versi i contributi per poi avere la pensione, che non è una pensione Inps, ma è una pensione... No, non ho iscritto a quella roba lì. Iscritto. Vabbè, no, niente. E non mi ricordo comunque, non mi sovviene. Ma quella è un'altra associazione. Non è un'associazione, è una un'altra cosa che adesso non viene neanche a me, che io non mi è mai interessato, adesso mi sfugge perché sono situazioni che non mi riguardano. Ho capito. Fabrais, cosa stai facendo? Niente, c'ho da un'ora la pagina aperta su Facebook e basta, non sto facendo niente. Capito? Quando vedo certe cose, se credo, vedete, guarda quel filmato, l'ho visto, poi non so più dove andare a guardare. Mi annoia a me Facebook, cosa è proprio mi annoia. La pagina tua è la prima pagina tua, sempre io lo sto mandando avanti e indietro così, ma non ci vedo niente proprio. Perché è una cosa che mai questo Facebook. Lì c'è sempre, vedo l'amica tua che ti guarda, che è innamorata, dice, sta scritto. Vaga, Gianni. Sento, dottor Gianni, su binario lì. In effetti, questa Facebook è una stronzata che non fa né cielo né terra. Io sto per cancellare definitivamente e non sentire più parlare, o non so. Ma c'è stato un break da parte di Barra Agricola, se non sbaglio, avanti. Attenzione Barra Agricola. Tipo, fallo entrare tu, Fabi. Attenzione Barra Agricola. Tutti, e tanti auguri di buon Natale. Hai fatto Barra Agricola, avevi sentito, ma l'avevi sentito il volta che ti ha fatto entrare. Io l'ho sentito, mi stavo infilando la cintura. Ho capito, voi sentite anche a te, buoni auguri di Natale, anche se sono passati, buon inizio di il primo dell'anno, vai. Cioè, ti volevo chiedere una cosa, mi ascolti? Agricola? Evidentemente non mi ascolti. C'è piccolino, cacca, sei c'è piccolino. A me ci guarda, mamma Agricola. Sì, mi sento. Lo so che a me mi sente chiunque, capito? Ti ho visto il grotte. Perché ormai sei diventato un bealto, voglio che ti dica, anzi, un bealto. Ho visto che mi ha scritto quello là, 1101 vuole dare quel traliccio. Alla grande? Cioè con quel traliccio no, non ve ne va nessuno, eh? Non penso che ce ne sia una sassa di tralicci del genere, cacchio, molto ricciato, mostruoso, cacchio, è incredibile. Secondo come se... perché poi forse scendo in Sardegna qualche camion manda, se non mi fa pagare il trasporto lo porto e glielo prendo. Quant'è? Enorme, infatti c'è elementi, c'è poi motorizzato perché è pesante, no? Per tirarlo su, non puoi aggiungere gli elementi, lo puoi montare tutto e poi metti il secondo motore man mano che vuoi tiri su, cioè se lo tiri tu su soprattutto come puoi salire, cazzo ti vedono da Macomer. Pagava, e lì ci vuole un progettino però, e anche l'autorizzazione. No, quello, se faccio quei lavori su, deve mettere le camere su, una volta che c'è metto tutto e glielo faccio ancorare come si deve, no? Ma scusa un attimo, fai riprendere Gianni che sto scrivendo una cosa. Riprendi Gianni, riprendi. Un altro che si è addormentato col microfono in mano. Riprendi Baragri. Ok, anche Baragri con la cacca si è addormentato. Scusami, sto scrivendo una cosa, se no non riesco a fare due cose da un po' di tempo a questa parte, due cose insieme. Un attimo. Attenzione Gianni, doppio room. Prova Bryce. Eccomi. Non si è più sentito Salvatore. Stavo lavorando. Massimiliano, non l'ho più sentito. Nemmeno io, sarà lui, non lo so, è un po' che non si sente. Ma di Roggero, vabbè Fabri dai, ma domani a che ora vai al lavoro? Adesso io domani faccio le tre notti, domani notte. E fai di notte? Notte. Ma non sarebbe del caso del giorno di Capodanno, della notte di Capodanno, fare un bel botto? Proprio un bel botto, mi patatum! Potrebbe anche essere, non è detto, Mettiamoci l'impegno. Io mi posso anche mettere d'impegno, non ci vuole niente a fare un bel botto, Brillare di più le lampadine. Poi magari mi licenziano, però. Ragazzi, ma qual è l'importante? Scusa, divertirsi o lavorare? Divertirci. E allora? Divertimento ce l'abbiamo, c'è Pomponio che ci porta a donne. Lavorare ne possiamo fare a meno. Cartino che va giù, hanno sempre tutti fame qua dentro, hai capito? Beh, com'è andato le calamite? Bene, un bel contento. Giorgero. Vabbè dai, ti lascio. Ci sentiamo domani, se coincide, te l'ho detto come voglio incardinare quella cosa. Ti faccio adesso da quella bindella che mi hai dato, da quella piattina, la divido a metà, creo una U come uniform e la saldo al centro dell'altra piattina, dopodiché gli faccio il lateralmente alla U, gli faccio i buchi per metterci, cioè per costruire il cardine, e nella piattina faccio altri quattro furi per fissarla al muro, in modo tale che è proprio incardinato il palo al muro. Dopodiché lo tiro su e a distanza di 2 metri e qualcosina in più gli metto le due staffe, in modo tale che una volta alzato si agganci proprio alla staffa stessa. Così sta su 3 agganci e non c'ha bisogno di tirantatura. E vedi tu dai, però l'ho fatta più semplice, comunque vedi tu. Ma sai perché lo sto facendo così? Perché così puoi, quando vuoi, abbassarla senza bisogno e l'ausilio di altre persone che ti stiano lì a dare una mano. Capito? Una volta che tu fissi una carrucola o comunque un occhiello al palo e un occhiello al muro, hai la possibilità di abbassarla senza nessun problema, senza rischiare che cadendo spacchi tutto quanto. Ma già fai tu quello che voglio vedere. Sta parlando. Buon QRT, buon 144 quando lo farai e ci sentiamo alle prossime. Saluto anche Vittorio se è ancora in ascolto, eventuali ascoltoni, Gianni Double Room che non ho capito se è andato in QRT o cosa, Barra Agricola che ho sentito prima, Claudio Ascoltone Sparviero e tutti gli altri amici che eventualmente stanno ascoltando. Ciao ciao. Ok, buonanotte. Fate tutta una traffica tu così, vabbè, ciao ciao. Non la giocare, non vuoi che sono qua buttato, non ho più voglia, si sente il tono della voce. Ciao. Ciao.